快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公， 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。北京人民广播电台，歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 弄臣，唐·乔万尼，蝴蝶夫人，托斯卡，曼农列斯科中的著名爱情二重唱，由帕瓦罗蒂、弗雷尼、萨瑟兰、维克尔、波普、卡纳瓦、卡雷拉斯等演唱。 felice e te Oh, Yeah! perché non fugga più. Io t'ho dormita, ti serro palpitante. Yeah. che parli mai, che sola ira peggio amar. Idei, ma scorta, non tu mi asarai. Tu vos per giuro, non ti macchia, una poi, non poveris per culo. Nell'amor mio, lumi ti aiva, dischiude un ciel d'amor i deserti interminati Thank you. destino.